Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. Il sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati, una nuova puntata alla riporta di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359 ondi mediocri, ondi medie, oppure online. RadioWombat.net, il sito, sì, il solito sito dove potete trovare sia il tastone per ascoltarci in diretta, sia i vari, le varie puntate registrate che potete così ascoltare se ve le siete perse. Esattamente, se volete scriverci scriveteci a posta@insiberia.net. Se invece vorreste scriverci qui ora in diretta, diretta@wombat.vado.li. Sì, esattamente, oggi alle porte di Tannhäuser abbiamo deciso di dare voce a un grande classico. In effetti l'avevamo un po', come dire, lasciato in dulcis in fundo, forse in fine stagione, non lo so. Effettivamente è un mostro sacro della fantascienza e non potevamo non parlarne, ma anche perché al di là del senso del dovere, perché ci piace proprio, c'è un qualcosa che insomma, è un autore che amiamo molto e di cui di fatto siamo imbevuti e intrisi. Sto parlando di Philip K. Dick, Philip Kindred Dick, per gli amici, e come Ballard, direi, come Vonnegut, come tanti altri, Bradbury, insomma altri che abbiamo citato anche nel corso di altre puntate delle porte di Tannhäuser, però Dick è un autore, come dire, immenso, che ha scritto tantissimi libri. Si parla di, se non ricordo male, 33 romanzi e non mi ricordo almeno 100 racconti, ma forse potrei sbagliare, potrebbero essere di più. Sicuramente sono tantissime le cose che ha scritto. Fra l'altro vi invito subito così a leggere non soltanto la sua narrativa, ma anche non ha scritto tantissimo di non narrativa, ma c'è un libricino uscito tanti anni fa per la Feltrinelli che si intitola Se vi pare che questo mondo sia brutto, e che è bellissimo. Insomma, è un libro di Dick, e fondamentalmente il sottotitolo è Se vi pare che questo mondo sia brutto, il sottotitolo è Dovreste vederne altri. E è un po' un libricino in cui Dick prova un po' a raccontare a ruota libera abbastanza, in alcuni saggi, è una raccolta di saggi sostanzialmente, prova a raccontare quel che lui pensa di diverse cose, del rapporto uomo-macchina, dell'invadenza della tecnologia, della reificazione dell'essere umano, di come si sono inariditi i rapporti, di tutta una serie di cose che Dick osserva nella realtà che vede tutti i giorni e che poi sono alla base della sua letteratura, effettivamente. Ecco, lì è il modo in cui lui finalmente non viene interpretato dagli altri, cosa che faremo anche noi oggi ovviamente, ma si può esprimere in libertà da solo con le sue parole, in termini chiari, semplici, anche molto accattivanti. Allora, visto che siamo in apertura di chicche succose e consigli appunto che esulino dalla lettura, che comunque va fatta, di tante opere di Dick, insomma comunque straconsigliamo perché sono fondamentali e ne parleremo, forse non tutto in questa puntata, probabilmente buona parte delle opere nella prossima, ma oggi iniziamo a trattarne. C'è un'interessante biografia scritta da Carrère, di cui ringrazio Lorenzo che ci ascolta, tra l'altro, che mi ha fatto tornare in mente, insomma mi ha detto di questa biografia. Carrère, che tutti conoscerete, o se non lo conoscerete andate a cercarvi chi è, conoscetelo, Emmanuel Carrère, che però ha scritto una biografia. E lo sai perché ha scritto una biografia? Cioè, tra le varie motivazioni per cui ha scritto questa biografia su Philip Dick è che perché a un certo punto Carrère assume una Bambinaia, come si dice? Una... Anche a me mi viene bambinaia. Non so perché mi viene bambinaia. Babysitter. Una babysitter per i propri figli. Babysitter che era stata, in realtà, per 20 anni babysitter in casa di Philip Dick. Oh mamma, quante ne ha viste. Capito? E quindi da lì, grazie a questo contatto, diciamo, trova sicuramente uno degli spunti per parlare di Philip Dick. Poi la carriera era comunque un accanito... lettore soprattutto di fantascienza, e quindi comunque già partiva da una consapevolezza diversa. Il titolo è Io sono vivo, voi siete morti. È così, il titolo della biografia. Tipo, da adolescente, scrive Manuel Carrer, nel regno sono stato un lettore appassionato di Dick e, a differenza della maggior parte delle passioni adolescenziali, questa non si è mai affievolita. Ho riletto a intervalli regolari Ubik, giusto, giustissimo, le tre stimmate di Palmer Eldrick, che anche, non ho letto anche io, quello però. Giustissimo, ok, perfetto. Un oscuro scrutare, giusto. Noi marziani, bello. La svastica sul sole, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata o quella prima, era quella scorsa, non mi ricordo, anche non ricordo, mi sembra Fantascienza e rivoluzione nelle scorse due puntate, e appunto La svastica sul sole, altrimenti conosciuta attraverso la serie, che è The Man in the Castle. Niente, chicca lanciata un po' così. Ma tra l'altro di biografie di Dick ce ne sono diverse, ce ne sono anche altre oltre a queste che citavi. E leggevo in un libro di Caronia, ecco Caronia, citiamolo anche lui, come Antonio Caronia, uno dei massimi conoscitori, almeno in Italia, di Dick, dell'opera di Dick, e in generale uno scrittore che ha parlato moltissimo di cyberpunk, e a cui il cyberpunk in generale deve tantissimo. E lui scrive moltissimo di Dick, scrive in particolare su un libro uscito per Agenzia X che si chiama La macchina della paranoia, scritto in combo insieme a Domenico Gallo, e in questo libro leggevo che Caronia si lamenta un po' delle varie biografie. Tra l'altro non citava quella che tu dici, ne citava altre due in particolare, e si lamentava del fatto che a volte tendevano un po' a romanzare la sua vita, che sicuramente è stata una vita piuttosto rocambolesca e piuttosto interessante anche per un biografo. Però ecco, diciamo che c'era molta sovrainterpretazione e alla fine si tendeva a leggere i romanzi di Dick, le opere di Dick, in due filoni che poi vedremo. Uno è il filone della psichiatria, fondamentalmente dicendo vabbè, era schizofrenico, era matto, quindi l'opera sua è l'opera di un disturbato, e l'altro, che poi magari dicendolo in termini più gentili, però di fondo la tesi era un po' quella. E l'altro filone era un po' il filone delle droghe, nel senso, effettivamente era un tossico, prendeva un sacco di sostanze e quindi molti libri li scriveva in stato allucinatorio. Ora, non è che non c'è del vero in queste affermazioni. No, certo. Lo vedremo, insomma. Però non si può neanche, giustamente fa notare Caronia, non si può ridurre l'opera di una persona così complessa, che ha scritto cose così che rimangono fino ai giorni nostri, a fondamentalmente i dettagli biografici. E detto ciò, però, insomma, ne parleremo a lungo della sua biografia e partiremo anche un po' da lì, perché è stato ovviamente importante, fondamentale per la sua scrittura. Tra l'altro dico anche come ultima citazione che io ho trovato invece dei dettagli biografici suoi molto interessanti, e in generale degli scritti che raccontano un po' meglio il suo pensiero, all'interno delle introduzioni di tutti i racconti. C'è una raccolta di tutti i racconti uscita per, se non sbaglio, la Mondadori. Allora, Mondadori sta ristampando un po' tutto. Infatti io ti parlo di una ennesima ristampa, però di tanti anni fa, sarà stato di 15 anni fa. Ok. Quella in economica della Mondadori, okay. Bruttissima. Certo. Mi sembra in 5 volumi, dove c'è fondamentalmente tutti i racconti di Dick, sono bellissimi, uno più bello dell'altro. E le introduzioni sono molto interessanti, in realtà non sono niente affatto banali, e raccontano moltissimo della vita di Dick, e devo dire lo fanno anche senza giudizio, quindi lo trovate degli spunti interessanti. Va detto che nei libri di fantascienza spesso e volentieri la prefazione o l'introduzione raccontano cose interessanti, a volte per esempio su, ora perché l'ho letto tanta Ursula Le Guin, spesso c'è anche trattazioni proprio filosofiche molto interessanti da, che poi ti danno questo appunto questa base per poi leggere in maniera anche un po' diversa forse il romanzo che andrai a leggere. La Mondadori sta ristampando tutto Philip Dick con delle edizioni veramente molto molto belle. E sono tutte tra l'altro introdotte da Carrera. Vedi. A sto giro c'è lui. E quindi insomma non un nomino qualsiasi da poco, ecco. E quindi si diceva, partiamo dalle robe biografiche. Vogliamo iniziare a bomba o mettiamo un pezzo? Dimmi te. Allora, la prassi vuole un pezzo di apertura. Mettiamolo, e poi allora partiamo a bomba. Quindi rimanete qui con noi, Porta di Tannhäuser. Parliamo di Philip Dick. To dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Jack be nimble, Jack be quick, Jack kept the spoon on the candlestick. Dope stick pimping on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine. That prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey, but you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, the more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. Yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Dr. Walker figure ace what he told the jail. Come rain, come shine, come snow if it's sunny. Get the f*** out, feel to get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, pants on fire. Girl, I love you. I love you though. Suonano questo strumento strano, mi esalta. Esatto. Sa cos'è? Mi gracchia un po' il mic, vabbè. Chissà. E quindi sì, dicevamo, robe biografiche per iniziare. In realtà sarà un po' il filo conduttore di questa prima puntata che dedichiamo a Dick. E poi, come promesso, nella seconda puntata, seconda parte, insomma, entreremo un po' più nel vivo delle opere e quindi anche andremo a vedere esattamente anche un po' alcuni suoi temi ricorrenti. Dick nasce nel 1928, con parto prematuro. Questo dettaglio non è di poco conto, perché aveva una gemella, Dick, e la gemella muore dopo pochi mesi. Pare forse per un'intolleranza al latte materno, e qui c'è proprio Freud alla grande, oppure per malnutrizione, o in generale per pare una mancanza di cure, non si erano resi conto che la figlia era di fatto denutrita, e probabilmente anche Dick soffrì della stessa denutrizione. Sì. Erano due bambini in una famiglia abbastanza problematica, dove tra l'altro la madre divorzia dal marito pochi anni dopo la nascita dei due gemelli e decide di portarsi con sé il figlio in California. Del padre non si sa un granché, cioè evidentemente è stata una figura abbastanza assente nella vita di Dick, questo insomma senza fare grandi teorie da psicologo, no, da quattro soldi, ma è evidente. Questo fatto della gemella però non è una roba così marginale, diciamo che è una cosa che si porta dietro per tutta la vita. Pare questa cosa, leggevo che non è una roba così, cioè che succede spesso, che i gemelli comunque, un gemello, una gemella che rimane senza il suo fratello, privato del suo fratello, a un certo punto sviluppa, soprattutto se lo perde in tenera età, sviluppa un senso di incompletezza che si porta dietro per tutta la vita. E questa è una roba probabilmente abbastanza intuibile, abbastanza comprensibile anche di natura banalmente biologica. Fatto sta che Dick non se ne fa tanto una ragione. Questa cosa di un senso di, anche un senso di colpa banalmente, del fatto che lui è sopravvissuto e la sorella no, e che lei era denutrita e lui no, insomma, è un qualcosa che se la porta dietro. Tant'è che alla morte, lo vedremo, vorrà essere sepolto insieme a lei nella stessa bara. E altra cosa che leggevo, mi ha fatto abbastanza accapponare la pelle, i genitori, quando è morta la figlia, la sorella di Dick, ha fatto scrivere sulla lapide il nome della figlia e data di nascita e data di morte, accanto quella di Philip K. Dick, data di nascita e trattino sospeso. Però questa è una roba che in realtà al tempo probabilmente si usava a fare, e temo che si faccia ancora in alcune famiglie. A me mi ha fatto raccaponare la pelle, e cioè te la dice tutta sul fatto che insomma sto povero figliolo è venuto su con qualche turba. Tant'è che a un certo punto pare che avesse questo, non, insomma lo diceva, non era una roba inventata, aveva un'amica immaginaria. Prima una bimba, poi una ragazza, perché se la porta dietro questa amica immaginaria fino all'età adulta, che era una figura proprio a suo dire esplicitamente, lo diceva anche lui, che era una figura idealizzata della sua perduta sorella Jane. Lui inizia appunto a manifestare prima questo fatto così, poi non dormiva, aveva tutta una serie di problematiche legate al sonno, legate alle emicranie fortissime, tutta una serie di disturbi di varia natura, tant'è che inizia a fare dei vari giri dallo psichiatra. Del resto la madre, erano degli anni quelli, si stiamo parlando degli anni 40, 30-40, in cui si iniziava a sperimentare la psichiatria. La madre di Dick pare che mangiasse pillole come se fossero caramelle, e che fosse una persona che di base aveva sperimentato un sacco di farmaci nuovi via via che venivano certo, introdotti. E questa purtroppo all'epoca era una cosa ancora più usuale rispetto ad adesso, che pure insomma non è che siamo l'America in un momento... è famosa per la medicalizzazione, no? O l'ultra medicalizzazione. Esatto, e anche la sperimentazione sulle persone, perché di fatto questi erano farmaci di cui non si sapeva ancora quasi niente, sì. Che venivano rilasciati così e fatti provare a persone tra molte virgolette normali, nel senso che in una famiglia media, medio borghese anche, era piuttosto normale, ancora poi dopo, anche negli anni 50 e 60 ancora di più, era piuttosto normale che se ti sentivi un attimo giù ti pigliavi un Valium, ti pigliavi vari psicofarmaci. Non che adesso stiamo nel paradiso, tutt'altro, però all'epoca era un fattore, soprattutto negli Stati Uniti, veramente dilagante, veramente importante. Ballard anche ne parla nella sua meravigliosa biografia, dove racconta che sua madre, cioè lui ha questo ricordo molto vago, un po' così, di quando era piccolo, in cui si ricorda che la sua visione dei suoi genitori era fondamentalmente due persone completamente sempre sbronze o strafatte di psicofarmaci, e questo per lui era normale. Cioè per lui era normale vedere sua madre che la prima cosa che faceva la mattina era versarsi un martini. Quindi questo era un po' il mondo. Altro grande problema americano è il rapporto con l'alcol. Infatti lo si vede spesso anche nei film, nelle serie, no? E nella fantascienza degli anni 50-60 ricorre tantissimo. E Dick palesemente questo aver vissuto questo mondo se lo porta dietro, lo descrive benissimo. Era un po' un mondo che si voleva anestetizzare, evidentemente. E a un certo punto, come dicevamo, va a giri dallo psichiatra e inizia questo suo lungo percorso, che tra l'altro anche detta di vari, compreso Caronia, ti porta anche a conoscere una serie di tematiche legate alla psicanalisi. Iniziò a frequentare, oltre che psichiatri, anche uno psicanalista junghiano e quindi iniziò a familiarizzare abbastanza da giovane con alcuni temi come l'inconscio, come certe dinamiche psicanalitiche. E i suoi libri sono intrisi di tutto questo. E anche lì sarebbe banale dire che era perché lui soffriva magari di alcune cosiddette psicosi. No, era anche che era affascinato da questi temi, certo, perché l'aveva conosciuti. In California frequenta l'università di Berkeley, ma non ne fa, perché questa volta non tanto per le sue questioni di depressioni varie o problemi, ma a causa della sua militanza nel movimento contro la guerra di Corea e il pacifismo. Lui aveva iniziato a sostenere, perché era obbligato a quel tempo, era appunto guerra in Corea stiamo parlando, e l'avevano costretto a sostenere un corso di addestramento come ufficiale della riserva. Erano anni in cui appunto tutto ciò era piuttosto usuale. E Dick lo inizia, rimane fondamentalmente pietrificato e scappa e si rifiuta di continuare e lascia quindi Berkeley perché era obbligatorio. Quindi questo è un po' il suo antefatto. Già all'epoca però appunto era una persona, come si vedrà, pacifista sostanzialmente, antimilitarista e profondamente segnato dalla guerra, e quindi come tutta la sua generazione, come tutta anche l'Occidente vorrei dire, ma forse anche in particolare gli Stati Uniti, molto segnato dalla Seconda Guerra Mondiale e poi dalla Guerra Fredda e dal nucleare, tutto quello. Pieno maccartismo il suo, quindi. Pieno maccartismo. Quindi anche il senso che già c'era, il senso di colpa di non aver fatto il proprio dovere. Probabilmente lui riusciva ad andare oltre, però intanto la società ti guarda male, ti esclude. Sì. E, l'incontro con la fantascienza pare che probabilmente avvenne abbastanza casualmente nel 49. E anche se lui in realtà aveva scritto tantissimo, aveva scritto dei racconti, molti dei quali sono andati perduti quando aveva addirittura 12 anni. Però vabbè, chissà. E c'è questo primo racconto che fu scritto in realtà nel 47, Stability, che fu pubblicato postumo però. E invece nel 49 praticamente incappa in questa rivista di divulgazione scientifica. Comprò al posto di divulgazione scientifica. Sì, scusami, è vero. Fa questa cosa che lui voleva comprare una rivista di divulgazione scientifica, sbaglia e se ne comprò una di fantascienza. Vabbè, poteva andargli peggio, dai. Sì, e poi secondo me all'epoca era abbastanza possibile sbagliarsi, perché magari c'erano tutte sì, è vero, i raggi megatronici, vai a sapere. È vero. Lui si sbaglia, fa un caso e fa bella però sta roba. E quindi lì scoprì la fantascienza, iniziò a scrivere di fantascienza. Poi lo vedremo, lui non ha un rapporto sempre lineare con la fantascienza, perché ha anche provato a scrivere letteratura che non fosse fantascienza, anche perché all'epoca se tu facevi fantascienza eri bollato come uno scrittore di serie B, e quindi da un punto di vista sia economico sia sociale eri uno scritturucolo. Ne abbiamo parlato, cioè le riviste iniziano veramente negli anni 60, poi la vera epoca d'oro, no? Sì, e lui infatti è di fatto diventato veramente famoso alla fine, cioè quando era morto. Sì, la scrittura gli ha permesso di vivacchiare, ci campava, però era uno scrittore per amatori, per una nicchia. E in generale lui un po' questa cosa evidentemente anche la soffriva, ma non tanto per una questione di gloria, ma perché il mondo ti diceva che quella roba lì era da bambini e dovevi scrivere roba più seria. Quindi com'è come non è che nel 52 Dick esordì sulla rivista Planet Stories. Diciamo che anche lì ci sarebbe da fare un po' una chiosa sulla questione delle riviste, ma forse si apre un po' un tombino, perché le riviste, diciamo che fino a quegli anni erano delle riviste sostanzialmente effettivamente molto commerciali, l'abbiamo già detto, molto dozzinali, cioè dentro c'erano delle perle, c'era della roba meravigliosa che adesso rivalutiamo, ma era anche piena di merda, diciamocelo. C'erano quelle, sì, quelle, sì, con le copertine, con le donne in costume dilaniate da un mostro, salvate da un marine, cioè era quel genere di rivista. E fu dopo, fu solo dopo che a un certo punto entrarono sulla scena delle riviste, che erano delle riviste di fatto di fantascienza un pochino più evoluta, come viene da dire, e tra l'altro anche politicizzata estremamente. Quindi questo era un po' il suo primo incontro. La vita di Dick va avanti, procede in parallelo con la fantascienza, avrà varie mogli, sposerà varie donne, avrà varie fugaci relazioni, finite tutte malissimo. Tendenzialmente Dick non doveva essere una persona facile. No, sicuramente. Tanto belli i suoi libri, ma per l'amor di Dio. Tra l'altro si mette anche con questa Cleo Apostolides, che era una militante comunista, quindi chissà come gli stavano dietro i servizi di sicurezza americani. È vero, ma lui infatti aveva un sacco di relazioni, anche di amici, di gente perseguitata dal maccartismo. Leggevo altrove che effettivamente lui durante il periodo del maccartismo stava veramente in paranoia pesissima, stava chiuso in casa. Aveva grandi amici che erano i suoi amici di una vita, che però erano tutti nelle liste nere, e lui era già era una persona paranoica, col maccartismo proprio ciaone. E si sente in tante sue opere questo aspetto qua, sicuramente. Tra l'altro dice che lui appunto lavorava nel mentre, quando ancora non era famoso, ma anche poi successivamente, in un negozio di dischi. Quindi aveva a che fare con la musica, dice forse anche con la radio, ha lavorato alla radio ma non è confermato. Sì, era abbastanza invasato di musica. Tra l'altro ho scoperto con mio grande stupore che i suoi libri sono intrisi di dediche un po' nascoste anche alla musica barocca. Questa cosa ho detto, vabbè, già mi stava simpatico adesso. Cioè gli easter egg della musica barocca, sì, bello. Sì, gli metteva gli easter egg, cioè, i personaggi si chiamavano... per esempio c'è un personaggio che si chiama Parzel, come il compositore seicentesco. Vero, vero. Poi c'è il famoso, perché io ho letto sempre il titolo in italiano, non avevo fatto 2+2, il famoso "Scorrete lacrime, disse lo sceriffo", in inglese è "Flow My Tears", che è uno dei brani più famosi di Doland, altro compositore seicentesco. Cioè aveva infarcito tutta la sua... Anche perché in tutta l'adolescenza comunque lui ascolta musica classica, no? Ascolta tantissimo, pare che fosse piuttosto ossessionato e un profondo conoscitore. Tra l'altro anche questa cosa, che aveva lavorato in un negozio di dischi, appare nei suoi libri più di una volta. Più di una volta i personaggi, i protagonisti sono... appunto, cioè proprio lavorano con messi. Sì, sì, è vero, è vero. Sì. E quindi dicevamo, varie mogli, varie fugaci relazioni. Tra l'altro con l'ultima moglie, Anne Williams Rubinstein, inizia a sviluppare una leggera misoginia e paranoia nei confronti proprio delle donne. A un certo punto pare che lui era completamente andato di cervello, era convinto che lei avesse ammazzato il primo marito, perché lei aveva avuto un altro marito che poi era vedova, era morto. Quindi lui a un certo punto inizia a convincersi che lei aveva ammazzato e che avrebbe fatto la stessa cosa con lui. A posto, deve essere facilissimo vivere accanto a una persona così. Che angoscia. Che gli passi il pane, fa. Sì, ma capite che poi stava strafatto dalla mattina alla sera, e poi il problema era la moglie, cioè, voglio dire. Capito. Sì, era un po' così. Però anche lì il rapporto, cioè non semplifichiamo come sempre, perché sarebbe semplice definire Dick un misogeno, ma non è vero, nel senso che i suoi libri le sue opere sono piene di personaggi femminili. È vero, come disse la Le Guin, che nella prima parte delle sue opere c'erano moltissimi personaggi femminili complessi, anche molto interessanti, e che nelle ultime opere invece questi personaggi femminili iniziarono un po' a essere banalizzati e un po' più così stereotipati. Infatti pare che si scazzarono tantissimo su sto fatto, ma poi si riappacificarono. Però comunque i suoi racconti, poi scenderemo un po' più nel dettaglio, lo vedremo, le sue opere sono sempre narrate da un punto di vista corale, quindi non c'è mai il protagonista classico uomo bianco classe media, ci sono sempre molteplici punti di vista, alcuni dei quali sono femminili e non sono mai punti di vista banalizzati o stereotipati, sono resi nella loro complessità. E quindi, come dire, io non ce la vedo, cioè, chiaramente ci vedo una problematica con le donne, perché comunque si era temeva molto le donne forti, si circondava di donne forti e però ne aveva anche, penso, piuttosto paura, e quindi insomma ne era un po' terrorizzato. Donne che poi l'hanno spinto, in realtà sono grazie a loro che lui ha cominciato un minimo a uscire fuori, perché probabilmente era anche una persona molto chiusa. Poi è vero che conobbe nel suo negozio, conobbe l'editore di gialli e fantascienza, però furono le mogli, le varie mogli, da Cleo a appunto alla l'ultima, William Rubinstein era l'ultima, se non sbaglio, anche lei, e sono loro a spingerlo a scrivere, quindi muse, ma non muse, cioè insomma è difficile, non si può appiattire a misoginia questa cosa, effettivamente. No, io penso che fosse una persona, appunto, come dicevamo, piuttosto insopportabile, piuttosto complessa, e che però stava male, cioè nel senso era una persona che di base aveva una grossa sofferenza e che quindi ovviamente non... è come dire se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè vai a sapere qual era l'elemento cardine, di fatto aveva una grossa sofferenza. Questa sofferenza però è riuscita a trasformarla in oro quando scriveva, ecco. Quindi di esatto. Questo parliamo oggi. Oltre così, tanto per non farsi mancare niente, soffriva di farmaci. Soffriva anche di farmaci. Sì, di conseguenza soffriva di farmaci, perché che farmaci gli davano? Gli davano di tutto, perché in particolare soffriva d'asma e di tachicardia. E pare che dai primi anni 50, quindi quando lui era piuttosto giovane, gli hanno iniziato a dare anfetamina, perché tra le varie lo psichiatra gli aveva diagnosticato una lieve forma di schizofrenia, e giustamente te uno schizofrenico gli dà le anfetamine, e già lui soffriva di tachicardia, quindi perfetto. Lui ovviamente ci va a rota. E anche erano gli anni in cui ti davano da fumare le sigarette per rallentare, cioè nel senso, capito, cioè un atleta che non si sentiva bene gli davano da fumare, tipo, oh, capito, calmo, ti calmi, esatto, quindi sì, era un po' così. E lui ci va a rota, ovviamente, anche perché scopre che con le anfetamine riesce a scrivere con dei ritmi da pazzi. Anche perché scriveva di notte lui, di base scriveva di notte. Sì, scriveva di notte, scriveva dei ritmi assolutamente senza senso, cioè tipo scrisse 5 romanzi in un anno, cioè proprio era una roba che senza posa. E tutta la questione anfetamine ovviamente lo caricavano a molla, perché riusciva a non dormire, riusciva a stare sempre a 2000 e quindi scriveva in continuazione. In particolare Il cacciatore di androidi, che poi è il libro da cui è stato tratto Blade Runner, e anche Ubik, entrambi estremamente significativi. Ubik è un romanzo meraviglioso. Pare che sono stati scritti nel culmine del suo consumo, cioè proprio quando era in ciampanelle completamente. Ma infatti dice riusciva a battere a macchina anche 120 parole al minuto, che è più o meno il doppio della media normale. Beh, è tutto drogato, ci vedo. Avrei voluto vederlo tantissimo. E vabbè, e quindi questa era tutta la parabola. Si fa circa un 20 anni di tutto ciò, e nel 72 va in pezzi. Cioè va in pezzi completamente. Anche perché così inizia a usare LSD e mescalina, oltre alle anfetamine e tutto il resto. e va a vivere in una casa insieme ad altri tossici, insomma inizia Poi viene lasciato dalla moglie, quindi non era l'ultima, perché poi c'è Nancy Hackett. Sì. Che lo lascia e poi muore l'amico, gli muore pure l'amico. Sì, inizia a succedere una serie di robe e a un certo punto lui, appunto, la paranoia inizia a essere costante fondamentalmente, cioè inizia a essere non un'eccezione ma la quotidianità. Un giorno pare che, fatto vero, degli sconosciuti gli entrano in casa e provano a forzare il suo schedario blindato dove aveva... tra l'altro ho scoperto nel schedario blindato lui teneva le prime riviste di fantascienza a cui teneva tantissimo. Niente, mega paranoia chiaramente, va nel panico, in particolare si convince di essere perseguitato dall'FBI. Siamo nel 72. Ci sta. Cioè, nel senso, per fortuna il maccartismo era un po' andato, ma comunque eravamo in piena guerra fredda e lui era in pieno delirio paranoide, quindi chiaramente va completamente in pezzi. Quindi va in comunità e inizia a fare un po' su e giù sostanzialmente, si ripiglia e nel 74 inizia a sentire le voci e avere le allucinazioni, quindi tutto ciò già insomma non era proprio così. Cioè, immaginiamocelo veramente in questo delirio, chiuso in casa, circondato da gatti, perché questa era un'altra delle cose positive di Dick. Si circondava di gatti. Immaginiamolo lì che si mangia le paste in continuazione e scrive a macchina con un forsennato. E poi si era trasferito in Canada a quel punto, mi sa, della sua storia. Sì. Canada è particolare perché è molto a nord, quindi c'è anche grandi periodi di buio. Ora, lui era andato a Vancouver e poi lì vicino, quindi sicuramente non siamo totalmente a nord. Certo. Però Vancouver sarà più o meno all'altezza della Danimarca, più o meno sarà forse. Quindi quello, già che sei pazzo, già che finisci anche dentro appunto una casa di recupero per tossicodipendenti. E poi venivi dalla California, quindi il contrario a livello climatico. Esatto, infatti è lì che scrive un oscuro scrutare, si capisce. Oscuro sicuramente. E freddo. Sì, infatti appunto nel 74 inizia a sentire voci, a avere allucinazioni e c'ha questa famosa svolta mistica. Cioè nel 74... Ah no, torna in California nel 72. Ah, ok. Prima è la prima. No, mi sono confuso. Okay. Beh, se la porterà con sé comunque con l'oscurità evidentemente, l'ha vissuta. Nel 74 appunto di fatto inizia anche a avere allucinazioni e a sentire le voci. Qui appunto oltre alle varie robe si parla di un abuso di farmaci da 30 anni. Quindi chiaramente sta roba ti spappola tutto il fisico, il cervello. Certo, poi roba. Arriverà l'assuefazione, quindi l'aumento delle dosi, ciao. Ciao. Quindi lui nel 74 praticamente a un certo punto pare che ci fu questo episodio in cui a un certo punto gli suonano alla porta, lui va a aprire e si trova questa ragazza dai capelli neri che era la famosa ragazza che ricorre sempre, la sua nemesi, la sperduta sorella Jane che ricorre fra l'altro in tantissimi libri. Ecco, gli suona alla porta questa ragazza dai capelli neri con al collo una collana con un pesciolino scintillante che gli inizia a parlare di sto pesciolino e da lì inizia tutto un discorso mistico. Lui rimane completamente estasiato da questa cosa e si convince di aver avuto una rivelazione mistica. E da lì in poi, dal 74 all'82, si chiude in casa sostanzialmente a scrivere l'esegesi, che è una sterminata raccolta di appunti incentrati sulla sua... Misticismo, sì. E teologia. Sì. Che alla fine saranno più di 8.000 pagine, un milione di parole. E alla fine di questa lui ha tratto una trilogia, che è la trilogia di Valis, ma di fatto per intero questa esegesi non è mai stata pubblicata, anche perché probabilmente era incomprensibile, era incompleta, era una valanga di appunti sostanzialmente che finché lui era in vita ancora ma adesso sarebbe obiettivamente impossibile o comunque molto complicato da dipanare. Volevo fare il calcolo di quanto ci aveva messo a scrivere 8.000 parole, anzi 8.000 pagine, un milione di parole, ma non si sa le parole quanto sono lunghe. Non posso fare questo calcolo, peccato. Difficile, lo lasceremo a qualcun altro. Però sì, cioè, ecco, per darvi un'idea. Ora, questa cosa della svolta mistica, tra l'altro, non è una roba che dobbiamo banalizzare, nel senso che comunque lui è sempre stato molto incuriosito dai quesiti mistici, religiosi, cioè non... come dire, non ha mai scartato l'ipotesi teologica e anzi ne è sempre stato incuriosito. D'altronde era una persona che ha incentrato tutta la sua ricerca e tutta la sua vita sul capire il suo universo, l'universo in cui viveva, e ipotizzare che ce ne fossero altri e confrontarli e lasciarsi aperte possibilità. Quindi la svolta mistica non è una roba da così. Ma esatto, ma per arrivare a quelle idee di anche super intelligenze artificiali superiori, appunto, tra l'altro la trilogia di Valis, Valis è acronimo di Vast Active Living Intelligence System, e si passa però dal misticismo per forza, o comunque si passa dall'idea di cioè ci devi passare da una riflessione teologica e poi chiaramente sì. Ma superi la, non so come definire, però. Beh, di fatto sì. Ma tra l'altro, cosa che non abbiamo detto, l'abbiamo detto forse nella scorsa puntata, se non ricordo male. Cioè, lui scriveva le trame dei suoi film, dei suoi libri, andava avanti a botte di Ching, di libri di Ching. Cioè, sì, l'abbiamo detto la volta scorsa, sì. Lui si consultava, consultava l'oracolo sostanzialmente, il libro di Ching, e quando doveva prendere una svolta in una trama, ma di qualunque tipo, anche piccola, cioè, chiedeva ai Ching. L'elemento casuale, anche ipotetico, cioè, è enorme in Dick, quindi ci sta tutta. Chiaramente per noi magari è un po' più difficile anche da capirla, anche perché nel mezzo ci stava tutte le sostanze di cui abbiamo parlato, quindi insomma non è che proprio fosse tutta farina nel suo sacco, però vabbè, tant'è. Nel 77 l'ultima moglie lo lascia, basta. Dick tenta il suicidio e questo episodio è fantastico. No, vabbè, tenta il suicidio tagliandosi le vene in garage, ingerendo barbiturici a bordo della sua Fiat a motore acceso. Cioè, praticamente lui ha detto: io le provo tutte. Allora, intanto è su una Fiat. Incredibile questa cosa. Io vorrei tanto sapere che Fiat. Madonna, bisognerebbe 77, boh, una Renault 4, non lo so. Vorrei tanto vederlo, comunque anche quello. Ma che succede? Fatto sta che però lui le tenta tutte, appunto, si taglia le vene, si mangia i barbiturici e lascia il motore acceso per asfissiarsi col gas, ma vomita a parte dei farmaci, le ferite pare che fossero ridicole, cioè quindi in realtà non si è davvero, insomma, ha fatto un casino, e il motore dell'auto si spenge, quindi praticamente niente, non ce la fa ammazzarsi, e però il giorno dopo ha questo barlume di lucidità, telefona allo psicoterapeuta che lo fa ricoverare. E da lì in poi, diciamo che è una triste, veloce parabola, nell'82 muore, nel 2 marzo, dopo una serie di ictus. E tra l'altro a poche settimane dall'uscita del film Blade Runner. Capito? Che pare che lui non riuscì a vederlo, ma fece in tempo a visitarne il set. Quindi in realtà qualcosina ha intravisto, però non ha visto il risultato completo. Chissà che ne avrebbe detto, non c'è dato di saperlo. Avrebbe svisionato a quel punto della vita, sì, probabilmente sì. Ormai, poverino. Non c'è il modello della Fiat, non lo sto trovando. Bisognerebbe forse guardare appunto in una delle biografie. Sì. Forse lì c'è scritto, ma forse neanche lì lo sanno. Cioè. Ma non lo so, sarebbe veramente interessante. Però. Da un certo punto di vista sì. Un po' morboso. Quindi, ahimè, siamo arrivati alla fine della vita del povero Dick. Vero? Sì. Sì, ahimè, sì. Questa era un po', come dire, le sue vicende biografiche, che come abbiamo visto non sono di poco conto e non sono di poco peso, perché chiaramente Dick se le porta dietro tutte come cicatrici e lo influenzeranno, ma come vedremo tra poco Dick riesce a sviluppare, è estremamente consapevole del mondo in cui vive. Quindi non immaginiamocelo come un vecchio farneticante che sta appunto a chiuso in un suo delirio di sostanze e di, sì, esatto, di paranoia. No, tutt'altro, è molto lucido. E questo, vi ripeto, se leggete i saggi che scriveva o vi andate a vedere su YouTube, ci sono anche dei suoi interventi ai congressi, così, cioè, insomma, è una persona tutt'altro che offuscata, ecco, è molto lucida. E quindi io direi magari mandiamo un pezzo e poi ci addentriamo un pochino di più nelle sue opere, non tanto nelle opere, nel dettaglio delle opere, ma un po' nella sua poetica, in quello che provava a dire del mondo che viveva. Che è ciò che ci piace di più della fantascienza, cioè la poetica, al di là della storia in sé. E alla fine il nostro Dick riuscirà a riposare accanto alla sorella al Riverside Cemetery di Fort Morgan in Colorado, e quindi tornerà. È proprio un cerchio, e speriamo che abbia trovato pace. Rimanete qui con noi, parliamo di Philip Dick. Queste sono le porte di Tannhäuser. To you at your own pacific day. Now my watch and I really don't mind, and that is how we work in the grind. So when I say the things I say, I mean every word, cause my verses convey something meaningful to the mystical mind. And if you're listening now, then we both out of time. Look out for those that you share, those moments that are so damn dear to you, cause if you continue with that endless rhetoric, you'll lose all that something special I got right here. Something I've been kicking up all these years. Lost in the battle, but now I'm back, no fear. Come on, looking up, put your back and dissect your ears. Look here, let me tell you about what the plague's been up to. Living among them invisible, lovable. To stop, oh, getting all I can get, which ain't enough. Fools through walls at every step. I get up to it's like a gust strong wind. And I tuck my chin in, put my hands in my pants, and I keep on moving on up. But it sucks, cause they suck all the love that I got. But it's not gonna shut my mouth up, cause I'm tall and I'm getting hard stepping. Keep a smile on my face and vacate the place. For those who don't know, sister, with the old, I'm lost in the sands of time. Know about you and I, we got what it takes. We know what it not, no, so we're going away. We're making a road. Second to none, whose sound is so profound, right now none underground, whose clout stands out. No wonder they be talking about me. B, W, and the beat. Having a hell of a time at the fight that I give, be helping rise defeat. Discreet and so mystique, given that je ne sais quoi, but these very good deeds. And that's just why I can't stop, won't stop, but rocking it on top. Top of the mountain, wide for the miles of sidewalk that I walked. I got something deep inside me, giving for further. I get enlightened from the height and level, sticking to the talk. Cause no, I'm all about the go, getting it, hard stepping. Smile on my face and vacate the place. For those who don't know, stay stuck with the old. I'm lost in the sands of time. Know about you and I, we got what it takes. We know what it's not, no, so we're going away. We're making a road, we're reaching a goal. Outside the sands of time. You got to be strong when them wrong don't lose it. Keep your calm, sometimes they try to break you down and restrain everything that they doubt, and so you take a look inside, and soon you'll start to realize that you got all the inside right. You have to make yourself and rise, and you gotta be all about the cocaine and hard stepping. Keep a smile on your face and vacate the place. For those who don't know, stay stuck with the old. Niente, sembrava che avessi trovato il modello, ma no, vabbè, allora poi lo cerco con calma. Io lo voglio pensare o su una Fiat, cioè su una Fiat Panda, scusami, perché ci, mi piacerebbe tanto, però nel 77. Sarebbe bellissimo. E se no su un R4. Verde come... chiaro, ricolore. Beh, sì, di quelle un po' verde. Capito. Sarebbe tipo da contadino. O se no anche... Esatto, 4x4. Esatto. O se no anche su un R4 che ricorda Moro, comunque così come... come omaggio. Però no, no, non lo sapremo mai, dai, non si può sapere. Se non andando a intervistare il suo psichiatra, secondo me non lo sapeva. Attenzione, attenzione. Ingerì 49 tavolette di digitalina, un medicinale cardiocinetico che a dosi ben minori avrebbe ucciso chiunque. Sonniferi, mezza bottiglia di vino, si tagliò le vene e si stese nella sua Fiat chiuso dentro il garage con il motore acceso. No, non c'è il modello neanche qua. Però questa cosa della Fiat, cioè, sono un po' pressappochisti, quando... Chissà se nella sua biografia che citavi prima c'è. Bisognerà andare a indagare. Detto ciò, ci stiamo spostando invece sulla poetica. Questo nome è Gracchia, questo mio nome. Gracchia. Ma niente, sì, anche perché Dick, come abbiamo visto, i dettagli, come dire, biografici, appunto, suoi, non è che ve li abbiamo detti così per... pruderi, ma anche perché tutte le sue opere sono intrise di questa anche come dire, delusione anche nei rapporti, nelle relazioni. Sì. E c'è un'attenzione molto profonda e molto una cura anche molto attenta verso le difficoltà delle relazioni, la solitudine, la diversità, il sentirsi inadeguati. Tutti i suoi personaggi sono in qualche modo inadeguati alle situazioni, ai sentimenti, alle cose che gli capitano. E questo è veramente, lo fa spiccare anche all'interno di un mondo che era quello della letteratura fantascientifica sua coeva, che aveva invece questi protagonisti sempre molto super omistici, che in qualche modo erano dei nuovi cavalieri che si lanciavano in avventure incredibili. Ecco, lui invece no, lui ha tutti questi personaggi terribilmente inadeguati, terribilmente anche a volte ridicoli, soli, in difficoltà. E anche questo probabilmente che ci fa piacere molto le sue opere, perché riesce a empatizzare moltissimo. Uno scrittore che non giudica gli altri, anzi neanche le assolve, ma li guarda con empatia. Guarda con empatia gli esseri umani e anche gli alieni e anche i cyborg, fra l'altro, anche le macchine. Sì, sì, è vero. Cioè, nel senso, si immagina che possano avere dei sogni, se non è empatizzare. Fra l'altro. E questa leggo appunto dalla Macchina della Paranoia di Caronia e Domenica Gallo, che vi citavo prima. L'inquietudine, l'opera di Dick, si vedono descritte l'inquietudine e l'inadeguatezza dell'individuo che dopo il conflitto mondiale si ritrova nel vortice del mondo consumista. E Dick coglie il palesarsi di comportamenti liberali proprio nella nazione che vorrebbe rappresentare l'ideale planetario della libertà stessa. Teme l'autodistruzione e assiste inerme al consolidarsi di un mondo in cui l'ipertrofia dei media pone problemi di identità e di ruolo all'uomo postmoderno. Dick è uno scrittore estremamente postmoderno, è stato definito da tantissime persone così, e effettivamente quello che coglie non solo Dick, perché poi Ballard avrà le stesse intuizioni, molti scrittori di quella generazione hanno le stesse intuizioni, però riescono effettivamente a cogliere quello spaesamento, non solo individuale ma anche collettivo in qualche maniera, di un'umanità che è stata sballottata prima da un olocausto nucleare, una guerra mondiale devastante, e poi buttata a precipizio in un vortice di autodistruzione, in un mondo completamente consumista, alienante e spaesante, che comunque genera solitudine, genera devastazione. Sì, sicuramente difficilmente Dick o quasi mai parla di un mondo migliore. Non c'è la visione di un mondo migliore, non è positivista assolutamente. Anzi, è molto c'ha delle parti, come dicevamo, metafisiche, misticiste. Cita molto, per esempio, in realtà, per esempio, l'oscuro scrutare è una citazione dalla lettera di San Paolo ai Corinzi, che io non lo sapevo. Siamo ignoranti in materia. Io in realtà dovrei saperle queste cose. Ma il mio curriculum te lo imporrebbe. Ma si dice sono un soldato di Cristo. Mi hanno nominato quando è successo, però non credo. Non formavo bene. Sì, brava, esatto. Dov'è? Volevo citarvi la frase di San Paolo. Eccolo qua. Sono certo che non me... No, scusate, è quello è lui. Adesso noi vediamo in un mondo confuso come in uno specchio. Allora, invece, vedremo faccia a faccia. E allora, lo scrittore è colui che vede faccia a faccia e riesce a raccontarti un mondo fuori. E infatti lui spesso, no, inizia i suoi racconti dicendo: io ti racconto sta cosa, non so se la capirai, non so se ti piacerà, non so se mi crederai, però io te la racconto. Sì, ed è anche diverso da, per esempio, Lovecraft o quegli scrittori di cui abbiamo parlato, un po' gotici, che tendevano invece a meravigliarti, a colpirti, sì, sì, a, come dire, spaventarti, ma per scatenare una reazione anche di meraviglia, no? E, no, Dick è un'altra cosa, effettivamente. Dick quello che dice è tutto plausibile, nel senso, nel mondo della fantascienza il patto tacito è che tu devi credere, non te ne devi fregare se è reale o non è reale, se è realistico o se non è realistico, e se anche non ti piacerà comunque devi darlo per plausibile. C'è molta, come dire, in Dick c'è moltissima indagine, questo insomma, sì, rientra, sì, un po' nelle sue tematiche principali, indagine di che cosa potrebbe essere la realtà. Insomma, questo probabilmente le sostanze aiutano, però ci sono un sacco di interrogativi ontologici nelle opere di Dick. È una delle cose che gli piaceva fare di più. Continuamente si domandava di che consistenza avesse la realtà. Era anche oltre al di che cosa era fatta, come si sfaldava, perché in qualche modo Dick, la sua generazione, osserva un mondo sfaldarsi, lo vede che va in crisi, per questo è uno scrittore postmoderno, perché vede tutta la modernità sfaldarsi e non ricostruirsi, perché di fatto la società consumista non è un equivalente, cioè non è solida altrettanto, anzi, no, si basa sulla liquidità, sulla sfaldamento. E quindi è il soggetto che si sfalda dentro la realtà e la realtà stessa che si sfalda a sua volta. Ma sì, il maccartismo poi era questo, no? Cioè era il denunciare il vicino. E quello che cos'è se non una distruzione della società, della socialità, di tutto, no? Eh sì, non ti puoi attaccare a più niente, non ti puoi più, come dire, non puoi neanche illuderti, immaginarti un mondo, perché devi stare costantemente a preoccuparti del tuo, brava, vicino, devi... L'immaginazione. Eh sì, ti tronca l'immaginazione, questo, sì, sì, è un fattore fondamentale. Infatti se arriva un android e ti dice: ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare, in realtà sotto questa cosa dell'immaginazione c'è questo, c'è una società che non riesce più a immaginarsi. Eh sì, in questo però è molto bello Dick, perché non è neanche dall'altro lato consolatorio, cioè non ti dice... No, per niente. Se non ti dice, cioè non ti demonizza niente in qualche maniera, anche se sì, certa roba te la demonizza e come. Però, diciamo, ti dà un ventaglio di mondi possibili, ti insegna l'interrogativo, non ti chiude le possibilità, sì, sì. E quindi neanche ti dice: guarda, sì, ok, appunto, come dicevi anche tu prima, la tecnologia ci salverà, i viaggi spaziali ci salveranno, evadiamo, andiamocene via da questa terra ormai distrutta. No, è più una questione profonda di interrogatorio continuo e di risvegliare una capacità di immaginare anche mondi possibili. Quello che dice Dick in un'intervista che trovate appunto su tutti i racconti di cui vi parlavo prima, dice: cominciai a sviluppare l'idea che ogni creatura viva in un mondo leggermente diverso dai mondi di tutte le altre creature. Questa idea andò ampliandosi fino alla descrizione di universi solipsistici e a un progressivo indebolimento del concetto di realtà condivisa. Quindi vabbè, come dicevamo, Dick era un lettore di testi filosofici, religiosi, insomma, ce ne metteva parecchio. Ma di base, soprattutto la sua prima fantascienza si poneva come una contestazione molto palese, molto aperta, di una visione del mondo unilaterale e totalizzante. Quindi quello a cui teneva tantissimo Dick, si vede veramente in praticamente tutte le sue opere, era di non chiudere le possibilità e di dare corpo a interrogativi e mondi possibili. E da qui un po' anche la sua natura profetica, un po' nei suoi romanzi, palese o meno palese, perché mi viene da dire anche, per esempio, appunto, no, lui punta tanto anche sull'impatto dei mass media, sulla vita quotidiana delle persone, sul controllo, l'inconsapevolezza, ma cioè, nel senso, ci sono il presidente robot dei simulacri, per esempio, sì. Cioè un presidente robot, cioè cos'è? Vuol dire qualcosa che prima non si poteva neanche immaginare, cioè che ci potesse essere a comandare qualcuno. Ci sono, leggevo tempo fa un articolo in cui dice no, che si può mettere accanto, per esempio, all'arrivo di Obama, quindi non si poteva neanche pensare negli anni 60 un presidente afroamericano, certo. No? E quindi in qualche modo quindi queste cose un po' meno. E poi, per esempio, La penultima verità, che prima ti dicevo e vorrei leggere, che non lo conoscevo, però anche quello, e anzi, averlo conosciuto, probabilmente parlavamo di Fallout l'altro giorno, no? Che racconta di una guerra nucleare che viene raccontato sia avvenuta e abbia distrutto tutto il mondo e vivono sottoterra dentro i bunker, l'ho semplificata. Ecco, la penultima verità è proprio questo: la gente che vive in questi formicai e che credono che fuori ci sia una guerra in atto fra robot e che loro non possano uscire. In realtà c'è molto di più, in realtà non sta succedendo quello che gli stanno dicendo, quindi il controllo, Ma sì, tra l'altro Dick era molto... Ora stiamo passando anche dei filoni di interpretazione che parlano chiaramente di un Dick molto metafisico, molto filosofico, che c'è, perché c'è tantissimo. Però Dick era anche molto attaccato alla realtà e anche descrittivo della realtà che vedeva in maniera feroce, cioè era comunque uno scrittore estremamente politico e insomma era paranoico a ragione, perché non è che le cose che scriveva ci andava giù leggero, tant'è che uno dei suoi nemici storici, proprio Satana, la personificazione del male, fu Nixon. Cioè Nixon era proprio per lui tutto rappresentava tutto il male possibile sì, che gli devi dire. E in generale i suoi libri, ce ne sono tanti, in cui si racconta in maniera spesso ironica, spesso tagliente, ma molto precisa, appunto i pericoli di una repressione politica molto più sottile della repressione, come dire, violenta, classica. Erano gli anni in cui Marcuse parlava di queste cose, diceva sì, occhio, perché le società occidentali vivono con il capitalismo e la società dei consumi una repressione di tipo molto più subdolo, perché rende le persone molto più docili e le porta a un'autocensura, a un'auto-indottrinamento molto maggiore, molto più efficace rispetto a una censura violenta, fisica, semplice, diciamo. E Dick queste cose le sa benissimo e ne parla in maniera molto feroce. L'altra componente che mi interessa sottolineare è anche si diceva prima, delle possibilità, dei mondi futuri possibili, gli universi paralleli. Stessa cosa lo fa con la macchina, col cyborg. Lo dicevi prima, i cyborg possono sognare, ma non solo. Dick non risolve l'interrogativo se la macchina può essere in qualche modo paragonata a un essere senziente, a un essere vivente. Di fatto era un interrogativo che ci portiamo ancora adesso addosso. Dick non lo, sceglie di non risolverlo e rimane a metà nell'ambiguità. Sì, e sì. Questo è bellissimo, secondo me, e poi andrà a influenzare tutto il cyberpunk successivo. Non ha un giudizio. Le macchine, in qualche modo, è come se avessero una loro esistenza, che non è una loro dignità, anche aggiungerei, che non passa dall'essere uguali all'essere umano. Cioè non necessariamente una macchina può avere dignità soltanto se è simile a un essere vivente, se è organica, se funziona alla stessa maniera di un essere organico. E quindi c'è una grossa riflessione latente, ma neanche troppo latente, in tutte le sue opere, sul confine tra naturale e artificiale, su che cosa è artificiale. Le nostre esperienze spesso vengono talmente rese artificiali che in fondo anche definire che cosa è umano diventa difficilissimo. Eh sì. E quindi è difficile poi definire per contrasto cosa è artificiale. Ma infatti molto spesso, tra l'altro, gli alieni sono buoni. Cioè c'è molto meno la presenza di alieni, sì, cattivi, e ti invadono quasi sempre. Sì, sì. Tendenzialmente, casomai ci sono problemi di comunicazione, ma di base neanche quelli. Sì. Quindi l'umanità, intesa come valore dato a un essere vivente, va al di là. E essere vivente, appunto, anche lì il confine fra macchina e essere vivente, la macchina è comunque un essere vivente in qualche modo. Sì, sì, sì, sì. Ma in questo, secondo me, era uno scrittore veramente libero, nel senso che in quegli anni, sì, riuscire a dire una roba del genere, che adesso, anche adesso, è difficile da dire, dare un senso compiuto a una macchina e a una sua dignità, al di là della reificazione che possiamo fare, insomma, è un qualcosa di estremamente, secondo me, denota una mentalità estremamente libera e molto curiosa anche. E probabilmente, appunto, è quello anche che ha affascinato poi tantissimi scrittori a venire. Assolutamente. Ci sono altri due grandi temi interessanti, che sono la guerra e il lavoro. La guerra, vabbè, chiaramente c'è, lui l'ha vissuta, ci ha protestato e c'è tantissime opere. E purtroppo fa parte dell'essere umano da secoli, quindi è chiaro che poi lo riporti nelle tue storie. Tra il 52 e il 54 troviamo almeno 20 racconti che hanno la guerra come argomento centrale o di sfondo, sia terrestre, cioè sulla Terra, interplanetaria o addirittura intergalattica, quindi fra galassie. Tra i più significativi troviamo La mente dell'astronave, La svastica sul sole, chiaramente ne abbiamo parlato, Follia per sette clan, Il mondo che Jones creò. Insomma, la guerra è anche uno strumento usato da vari soggetti dotati e desiderosi di potere economico e politico per mantenerlo. Quindi la guerra, spesso e volentieri, in realtà è un metodo per portare avanti il potere, non una liberazione di nessun genere. Paese fondato sulla guerra, che trova la sua indipendenza grazie a una ribellione che poi si trasformerà in una guerra, che vinceranno, ma vinceranno perché l'Inghilterra non ce la faceva più, perché sennò non la vincevano. E da lì diventa, è un popolo tutt'oggi basato molto sul militarismo. Sì, e questo Dick non ha nessuna ingenuità. Cioè lui, in tutto quello che scrive che riguarda la guerra, dà delle responsabilità precise e condanne precise. La guerra c'è soltanto per questioni di potere e per assoggettare gli altri esseri umani, e non c'è nessuna assoluzione in questo, mai. E come è giusto, no, la penso come lui, la guerra di base è desolazione, non è nient'altro. Cronaca del dopo bomba racconta proprio questo. Oppure ci sono situazioni in cui la guerra, il protagonista della guerra è Dio, o qualcuno che si ritiene essere Dio. Tipo Radio Libera Albemuth e la trilogia di Valis. Tra l'altro, Radio Libera di Albemuth è uno di quei due o tre romanzi in cui il protagonista, come dicevamo prima, fa il venditore di dischi. Ah, è vero, il commesso nel negozio. Esatto, come lui effettivamente ha fatto. Esatto. E invece, per quanto riguarda il lavoro, dicevi? Allora, il lavoro, per esempio, in Noi marziani, come la rivendicazione, cioè il lavoro è la rivendicazione delle ragioni dell'individuo contro le pretese della società. Il lavoro è quello che ti libera in qualche modo, però ti schiavizza allo stesso tempo. per esempio, il lavoro è fondamentale, tipo in Ubik, senza lavoro non hai i post crediti e sono quelli che ti fanno vivere. Va bene, grazie, però è quando è la dittatura della moneta ti chiude e ti trasforma il lavoro in qualcosa che è solo produzione per altri e essere accettati, no? E forse lì si vede anche il fatto che lui era uno scrittore e poi in realtà rimane ai margini per lungo tempo. Però in realtà lui sta lavorando, sta creando, sta immaginando. Io immagino che lui si sentisse veramente un operaio della scrittura, perché comunque credo che i racconti che scriveva, soprattutto inizialmente, ma inizialmente vuol dire per tanti anni, gli venissero pagati una miseria. E quindi di fatto lui ci metteva l'anima dentro queste robe, perché non erano raccontini, cioè, come dicevamo, erano racconti dove probabilmente metteva veramente una parte di sé enorme. E quella roba a malapena gli dava da mangiare. E con questo, senza minimamente dire che invece se li avessero pagati sarebbe stato meglio, cioè non c'è valore nel nel retribuire, sì, sì, il lavoro intellettuale, non è questo che mi interessa. Però probabilmente lui si sentiva anche estremamente svilito anche nel dover vendere i suoi racconti a qualunque prezzo, cioè in ogni caso doveva lavorare in fabbrica quasi per produrre dei prodotti e poi venderli e farli finire in una rivista. E lui stava a parlare di filosofia, insomma, probabilmente era un po' stranito. E infatti da qui poi chiaramente dicevi anche, appunto, che poi riporta a se stesso la sua esperienza. Quindi da una parte, per esempio, la Svazia sul sole, il maccartismo, cioè quell'esperienza pura in qualche modo sua, vista dallo stato che ti controlla, e la trasforma in questa distopia. Sì, distopia, poi non lo so, visto che andava male anche nel suo periodo, non so quale sia la distopia. Però le droghe chiaramente ci sono presenti, addirittura ti permettono di viaggiare nel tempo, come nell'illusione di potere, dove il protagonista, appunto, riesce a viaggiare nel tempo attraverso l'uso di sostanze, oppure un oscuro scrutare. Ma sì, ma ci sono spesso delle, poi lo vedremo magari, ma ci sono spesso degli eventi che a volte sono sostanze che vengono assunte, a volte sono, come nel caso dell'Occhio nel Cielo, loro che, questo gruppo di persone che si ritrova, va in visita una centrale nucleare e si ritrova colpito da delle radiazioni. E da lì praticamente si crea una sorta di inconscio collettivo che si manifesta sotto forma di allucinazioni, e ciascuno di loro vive il sogno allucinato orribile delle altre persone con cui è, e quindi vive tendenzialmente dei sogni terrificanti di una signora bigotta, di un razzista, cioè è un libro pazzesco. Comunque il film di Un oscuro scrutare, no? Immagino tu l'abbia visto. Scanner Darkly è un ottimo Keanu Reeves, giovanissimo. Animato. Mezzo animato, mezzo no. E devo dire che a ripensarci dopo, ora lì per lì, non avevo neanche letto il libro la prima volta che l'ho visto, quindi... Però a ripensarci, non è male la resa che hanno fatto. Ma guarda, questo sì, mondo strano in cui non si capisce chi c'è davanti, praticamente. È vero, io devo dire... Allora, di Dick, ovviamente non possiamo non dirlo, di Dick è stato fatto qualsiasi, cioè è stato tratto qualsiasi porcata, da Minority Report, cioè tantissima roba di fantascienza veramente hollywoodiana orrenda è stata presa da Dick. Quindi chiaramente nel grosso ci può essere il bene e il male, cioè, insomma, alcune robe sono veramente opinabili, altre come questa effettivamente sono piuttosto interessanti, secondo me, anche perché si sforzano di avere un linguaggio simile a quello che usava Dick. Sì, c'è Electric Dreams invece, che è i racconti brevi, la versione in serie dei racconti brevi, non è piuttosto fedele, quindi carino. Poi ci sono degli attori molto bravi, per cui è vero, piacevole, e anche piacevole. Quello è bello allucinatorio, effettivamente. Sì. Sì. Secondo me la cosa interessante è quando vengono colti questi aspetti, perché poi era lo spirito con cui Dick appunto narrava. Se non si perde se si prende solo, come in altri film, solo l'idea di fondo e si scarta tutto il resto, si sta veramente penalizzando e riducendo la sua opera. Quindi, non lo so, secondo me siamo abbastanza a fine di questa prima parte ciò che volevamo raccontarvi su Dick, a meno che tu non abbia altre perle nascoste nel forziere. No, cioè nel senso che ce ne sarebbero mille. Ce ne sarebbero mille. Le cose ti vengono in mente quando parli vai a parlare proprio dei suoi romanzi. Noi proviamo a dare delle linee guida in base al nostro vissuto, no? Un po' anche a quello che ci ha, all'immaginazione che ci ha prodotto la sua immaginazione. Quindi molto figo. C'è sicuramente una parte di eredità su quello che viene dopo. Direi di concludere un po' con quello. Fermiamoci però un attimino a inumidire l'ugola e poi torniamo per concludere un po' cos'è che ha lasciato Philip Dick alla fantascienza, cioè tantissimo. Quindi rimanete con noi. Spoiler. Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey. Ok, bon, tu vas m'expliquer tout ça. Questa è giusta. C'est une mission sinistre avec risque de grand danger personnel, ça sans mauvais même personne n'y force. Fais-moi confiance, les juges sont mes amis. Je suis l'avocat le plus sûr, je te jure, je les habille. Je te défendrai, rien n'est impossible. Quand Jack éventrait le verdict, pas d'homicide. D'abord, prends une caisse décapotable. Depuis que tu viens du test, dis plutôt que t'es de Bretagne. Prends tes chemises hawaïennes et ton stock de Marie-Jeanne. Faudra s'armer jusqu'aux amygdales. Comme avocat, il est pas mal ce type. Je cavale, je me speed et ma valise est pleine de produits pharmaceutiques. Autoradio, Panasonic, je parle mal au flic, c'est le panard au club, on jacque, arnaque au jeu de hasard solide. Toujours les mêmes salades au poste de douane et de Casanova, s'arrache les tripes, bouteilles de gin et zabal du sexe, ça va, je m'exprime en arabe et grec, ça va, j'ai le style, c'est ça que ça reflète, un sale caractère en trek, ça va, t'es tôt, plus on pas le caractère. Je prends le volant, je fais plein sans espèce, un chèque à ton nom sous couvert d'une fausse pièce, mais moi ta cassette de Jefferson Airplanes, endors-toi chez Botanic Airlines. Je me réveille, me lève, merde, mais qu'est-ce qu'on fout au plein cœur du désert, je gère, j'ai soif, je sue un gros scoop, mon sang est trop épais pour le Sahara. Mais au loin un peu, une oasis, une illusion se profile en cavalcade. Je me précipite, mais là-bas en bas dans le bar, c'est le précipice. Les clients me guettent d'un air suspect, je pense qu'ils savent pour les amphétamines, c'est visible. Mes gestes lents et secs me trahissent, c'est risible. Ma tenue de golfeur, c'est risette. Mes limites, mes lèvres au rang de suspect, critiquent les regards. Me scrutent, ils veulent mes rébans et mon bob véridique. Non, ne leur donne pas. Les clients disparus, j'étais en plein milieu d'un foutu saut de reptile. Quelqu'un donnait à boire à ces bêtes sceptiques et mon état actuel. Je pense qu'elles s'apprêtent à nous dévorer. Désolé, personnellement, voir ces grands lézards se bécoter me répugne. Et désolé, je vais dégueuler, m'isoler dans un coin sombre à l'abri de ces reptiles à sang-froid. Amnésie sous air, élitiste trop fort. On oublie tout et on part à l'aube. Ouais. Carrément barré, intelligent mais parano. On veut des arts et du cristal avec des phares. On veut des arts et du cristal avec des femmes à mettre en l'art. Ok papy, donc là c'est le luxe, le must. Le Smarties Club. Je soulage monsieur de sa carte bleue. Toi tu fais pas le tout. J'ai une sale coupe au pento. J'allume une cigarette. C'est une putain de chitane maïs que j'ai au bec. Pas une malba comme Antoine. Au sang je prends pour 100 tonnes. A la main je tiens un verre de jus. Banana banane avec un cercle de citron. Les dents en spud. Endormant je peux. T'as tué l'ambiance en volant le scud. Ça c'est du scud. On me lance un molosse. Jean Romain de Roman Polance. Qui nous transrecommence comme ce qui soumet. Deux manches un collant. Une potence. Une aubaine. Quand je repense au temps du colosse à la mort. Nous sommes officiels. Y compris à la danse. Maintenant on se sent bien, on a du videur dans la panse. Sur la piste de punk bar, prise au piège. En discothèque, ambiance carnaval banal. Mon vice obsède, déclenche une crise au siège. De mon calme, but au calme, son chopiste aux ailes. Les flics arrivent, des pécadilles. Une gamine en otage, c'est le mécanisme. Au voltige, démarre la caisse et mets la zip. Déjà la vie, les cartes font sac. Non, t'inquiète pas, j'ai déjà un cas. Ah ouais. Je mise à voyer un élitiste. Ouais. Je mise à courrier un strip. Tease. Je mise mon salaire et mes slip. Neuf. Futri parano, c'est loisile. Je mise à voyer un élitiste. Ouais. Je mise à croyant mais les strips. Je mise mon salaire et mes slips. Neuf. Fais-tu parano, c'est noisile. Yes. Je mise à voyer un élitiste. Ouais. Je mise à croyant mais les strips. Je mise mon salaire et mes slips. Neuf. Fais-tu parano, c'est noisile. Yes. Je mise à voyer un élitiste. Ouais. Je mise à croyant mais les strips. Je mise mon salaire et mes slips. Neuf. Fais-tu parano, c'est noisile. Yes. Je mise à voyer un élitiste. Ouais. Je vise la croyant, mais les slips. 10. Je mise mon salaire, mes slips. 9. Petit panneau, je m'en dis. En chemise hawaïenne, je suis agent. Il vise l'aquarium, moi l'argent. Il mise son salaire et moi rien. D'un putain de parano, je suis l'agent. En chemise hawaïenne, je suis agent. Il vise l'aquarium, moi l'argent. Il mise son salaire et moi rien. D'un putain de parano, je suis l'agent. Eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser per chi si fosse collegato in questo momento. Ahimè, siamo alla fine, quindi è troppo tardi. Potete riascoltarvi il podcast tranquillamente, quando volete, da dove volete. Ho fatto una prova anche su Spotify, però noi non ci siamo, dobbiamo vederla sta cosa. Brutto. Su Spotify c'è solo alcune cose, tra l'altro vecchie. Vabbè, capiamo Spotify. No, hai ragione. È un po' una merda. Sono d'accordo, io però ce l'ho craccato. Non so se. Interessante. Comunque, volevamo concludere un po' parlando di un po' dare qualche input finale, tanto ne parliamo meglio, però, dell'eredità di Dick. Sicuramente è, come dicevamo, è un autore che si discosta anche un po' dalla fantascienza dell'età d'oro. Grazie al suo, tra virgolette, sto facendo con le mani, pessimismo, perché l'età dell'oro comunque vede una fantascienza spesso e volentieri tutta brillante, o comunque dove gli eroi alla fine risolvono, gli eroi, perché eroine non ne conosco tante. Poche. E mentre Philip Dick, come abbiamo detto, ci porta la realtà di quello che può succedere, la realtà di quello che è, che noi non vediamo. Realtà parallele, come dicevi anche poco fa, che una delle sue eredità è anche questa, l'idea di realtà parallele, no? Ma sì, io penso che, ora non voglio, forse esagero, ma secondo me è un po' ovunque, cioè ormai questa idea, no, un po' abusata del film o della trama dove c'è questa realtà che appare, che non è come appare, e che in realtà tu stai vivendo in un mondo che non esiste, che in realtà la vera verità è tutta un'altra. Questa roba, insomma, sì, deriva un po' da Dick, dai, secondo me. Ora, ovviamente, cioè, l'idea del, insomma, potremmo farla risalire a Platone, però in realtà, certo, lui l'ha molto portata avanti, cioè c'è molto di Dick in questo. Beh, ho letto in alcuni articoli che vede lo Shakespeare della fantascienza. Ah, sì, è vero. Ursula Le Guin invece l'ha definito il nostro Borch. Ecco. Ma già meglio. Direi meglio. E, sì, sicuramente è un anticipatore per tanti versi di tante tipologie di fantascienza, in particolare il cyberpunk, in qualche modo, perché la figura degli androidi, dei robot, insomma dell'uomo che si mischia alla macchina, volente o nolente, tra l'altro. Sì, è vero. È presente in Philip Dick. In tutto ciò, però, scusa, Asimov si pone in scia a Philip Dick in qualche modo. Ma se non in scia, comunque in contemporanea, e tra l'altro frequentavano abbastanza, almeno in parte, alcuni circoli insieme. Sì, sì. Scrivevano nelle stesse riviste, insomma. Ora non erano proprio compagni di bevute, credo, però più o meno andavano in parallelo, secondo me. No, qualcosa stavo riflettendo su questa, sulla questione, per esempio, appunto del cyberpunk, però è più Dick effettivamente che Asimov, perché Asimov sì, è più, sì, sì, assolutamente. È più una fantascienza sociale, meno individuale. Sì, meno riflette meno sull'ambiguità anche dei singoli sentimenti. Poi, come dicevamo prima, manca in Asimov forse tutta la fragilità, l'intimismo, l'essere umano un po' sconfitto. Sì. Questo manca. Sì, è vero. E no, questo, vabbè, è tipico del cyberpunk. Cioè, fondamentale Asimov, nel senso a livello di una fantascienza sociale, cioè che ti racconta un'intera società che va avanti nei secoli e come si trasforma. Fichissimo, roba che è la base di molta fantascienza di oggi. Però Philip Dick ha qualcosa in più dal punto di vista, invece hai ragione, dell'individuo, e anche appunto dell'individuo che si trasforma e non sa più chi è. Sì, della mancanza di senso. Esatto, e di una società che sì, c'è, ma perde, o è un'illusione, o perde i punti di riferimento, e quindi l'individuo a sua volta perde i punti di riferimento. Sicuramente ora, se andremo prima o poi ad indagare anche Asimov, sicuramente avrà una componente molto meno autoritaria da parte dello Stato nei suoi confronti, immagino. Beh, sì, faceva meno paura probabilmente, sì. Sì. E, tra i vari, le varie eredità, ovviamente non possiamo non citare Blade Runner di Ridley Scott, probabilmente prima porta d'accesso verso Dick per molti di voi, di noi. Di fatto Blade Runner è una trasposizione tendenzialmente diversa, cioè abbastanza fraintesa anche per certi versi. Io la considererei, sarei di quelle persone che tendono a considerarla un'opera a sé stante, perché a me è piaciuto moltissimo e me lo rivendico, ma non è la trasposizione del libro di Dick. Sono proprio due opere diverse. Diciamo è Ridley Scott che ha letto Dick, gli è piaciuto un sacco e quindi se ne lascia ispirare. Bello, non è la stessa cosa di una così, di un'interpretazione secca. Meno male anche, direi. Poi leggevo fra l'altro Atto di Forza, non sapevo Atto di Forza. Pazzesco, neanche io. Madonna, è tragedia. Atto di Forza del 90, se vi ricordate, è basato sul racconto Ricordiamo per voi. E, di queste ce ne sono tantissime, di film più o meno noti, citavo prima Minority Report di Spielberg, che è basato sul rapporto di minoranza. Qui, come dicevamo prima, si prende l'idea, la si incapsula, cioè si estrapola dal contesto, secondo me, si toglie un po' l'ambiguità e anche l'irrequietudine che si legge invece in Dick e si mette un po' in un contesto spielbergiano, ecco. Poi c'è invece Paycheck di John Woo, non sapevo che anche questo è basato sui labirinti della memoria di Dick. Poi tu citavi giustamente Scanner Darkly, un oscuro scrutare di Linklater, che tra l'altro è anche regista di Waking Life, che anche quello non è ispirato direttamente a nessuna opera di Dick, ma è palesemente intrisa di atmosfere dickiane. E alla fine, nell'ultima scena, anzi proprio il regista in prima persona si mette a parlare delle esperienze di Dick, quindi insomma è molto, molto diretto. Tantissime altre cose, anche così, giusto per citarli, anche alcune serie, la serie omonima Minority Report, recente del 2015, The Man in High Castle, che abbiamo già citato nell'altra puntata, e come dicevi tu giustamente, Philip K. Dick's Electric Dreams, che è una serie del 2017 che racconta vari racconti, insomma basata su vari racconti di Dick. Molto interessante in realtà quella serie, secondo me. E però ci sono vari spunti ovunque, da Terminator al Truman Show, Existence, ma anche Matrix stessa. Dai, Matrix sì, è palesemente sì, presa, intrisa di Dick. Ma anche alcuni, io ci ho letto anche Inception, cioè come dicevo prima, tutti questi film che di base giocano molto sulle mondi paralleli, gli universi intrecciati, in fondo si rifanno a Dick. Quindi sì. Direi questo, quello più o meno. Poi chiaramente Dick qui si entrerebbe in un abisso, cioè ha influenzato moltissimi della sua epoca, la letteratura, come tu giustamente dicevi, il cyberpunk, ma non solo, scrittori suoi coevi, scrittori attuali, direi che un po' tutti hanno preso, chiunque ha fatto fantascienza dopo ha in qualche modo dovuto dare un tributo a Dick. In qualche modo sì, poi è chiaro che Dick a sua volta ha delle basi nella letteratura che l'hanno preceduto. Certo. Come è giusto che sia, però ogni tanto ci sono questi scrittori e queste scrittrici che aggiungono qualcosa di più. Qualcosa di più, una visione che va oltre l'ignoto, appunto, forse potremmo dire un oscuro scrutare, appunto, un guardare oltre il velo o l'oscurità, appunto, l'immaginazione. Assolutamente. E niente, questo era quanto vi potevamo dire oggi riguardo a Philip K. Dick, i suoi sogni allucinati o meno e le sue realtà parallele. La prossima settimana saremo in onda con Slick Chick, e invece quella successiva, il 17, quindi torneremo qui in diretta su Radio Wombat con le porte di Tannhäuser, e vi racconteremo a questo punto, penso, il continuo di questa storia che riguarda Dick, a partire dai romanzi, dai racconti, e come dicevi tu giustamente è un po' quello il cuore anche di tutta la faccenda, perché se ne può parlare per ore, però finché non si legge non si ha la contezza. Quello è valido per tutti. Bisogna fare un lavorino sodo però, perché appunto quando hai una sterminata produzione, una produzione sterminata, anzi invertiamo, una produzione sterminata così, allora, per raccontarla bisognerà un attimo capire, no, in che modo mettere. Noi vi lasceremo in sospeso pensando a come noi potremmo fare a uscire da questo casino in cui ci siamo messi. Se volessi suggerircelo, posta wombat, @insiberia.net, dubito che qualcuno ci tipo scriverà. Ordine alfabetico? Non sarebbe male. No, al di là dell'ordine cronologico sarebbe un po' quello che ci verrebbe più in mente, però vediamo, magari potrebbe essere un ordine più tematico. O saltabeccheremo, perché in fondo c'è... Quello che ci pare. O in ordine di come ci piacciono. Come ci pare a noi. Grazie a tutte e tutti per essere stati con noi in questa puntata delle porte di Tannhäuser. Appunto, lo sapete quando ci ritroverete qui in onda. Quello che abbiamo fatto finora lo trovate su radiowombat.net. Basta, vi auguriamo una buona serata. Ciao ciao Wombat. Viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuta sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.